Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, 8 e 37 minuti di domenica mattina, buongiorno da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini. Inizia una nuova mattinata insieme, 800 24 00 24, Carlo. Presente. Milano-Monterosa. Milano-Monterosa, al momento non piove, però abbiamo avuto due giorni di... in cui pioveva nebbia e quindi abbiamo la sensazione che potrebbe riprendere a piovere nebbia. Stamattina ce la caviamo, ci sono zone invece in Italia dove non ce la stiamo cavando per niente, in Toscana e Sicilia in particolare sta piovendo molto e ci sono molti problemi, quindi attenzione. 800 24 00 24, cari ascoltatori, anche questa mattina a disposizione i biglietti della mostra, una delle mostre, il gruppo 24 ore, estraiamo dallo scatolone delle mostre Basquiat, credo, o anche Escher, tutti i giorni ieri avevamo detto Basquiat invece era Escher, quindi oggi diciamo Escher e potrebbe essere Basquiat. Il primo che indovina il personaggio di questa settimana, pensate alle notizie degli ultimi 7 giorni, fra poco vi aiutiamo a chiarirvi le idee perché facciamo una piccola cavalcata tra le notizie della settimana e stiamo cercando un personaggio che fa parte della vita di tutti i giorni. Quindi questo è il primo indizio, 800 24 00 24. Tra poco parleremo di un altro argomento che fa parte, non dico della vita di tutti i giorni, ma quasi, del prosecco. Sì. Però c'è una notizia che riguarda le bici, la voglio dare subito, è molto bella, ne parleremo la settimana prossima, forse questa settimana no, ma è Copenaghen, come sempre dobbiamo guardare a nord per avere delle belle notizie. A Copenaghen la vendita di biciclette ha superato nell'ultimo censimento quella di automobili, la presenza di biciclette ha superato la presenza delle automobili, la prima città al mondo dove questo succede, credo. Questa è un vero si può fare, non vediamo l'ora di poterla dare in italiano, ecco. Esatto, declinarla anche su una città italiana. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Adesso terminando il giubileo, io mi auguro, ed è questo il fronte su cui proverò a lavorare, che parte dei militari che c'erano sul progetto Strade Sicure ed erano a Roma per il giubileo, parte potranno arrivare a Milano. Questo è un tema su cui, una via che sto considerando. E questo era Beppe Sala, il sindaco di Milano. Tutto è nato di qua, da questa sua dichiarazione. All'indomani di quella grave sparatoria che c'è stata in Piazza Loreto, ne abbiamo parlato anche ieri con un rappresentante della Social Street di Loreto, perché insomma non il nord of Loreto, non è tutto così come viene. Abbiamo cercato insomma di ristabilire un po' l'onore di questo quartiere di Milano, che non è un posto dove ci sono solo sparatorie, ma è un posto che viene scelto a tanti giovani per andare a vivere. Motivo ci sarà, un modello che insomma non va preso soltanto di mira presidiato con l'esercito, anche se ieri il ministro Alfano ha chiarito che ci saranno più militari in città, come chiesto dal sindaco, una richiesta che normalmente facevano altri sindaci. Esatto, magari. Infatti come abbiamo detto ieri, fa un po' strano sentire Sala che dice il problema della sicurezza non dobbiamo appaltarlo alla destra, quando però come ricetta sul tavolo... Forse bisogna fare anche delle scelte di sinistra per non appaltarlo alla destra e chiamare l'esercito forse non è una buona soluzione. Allora, adesso sentite qua, ve lo faccio sentire perché lo ha riferito in una conferenza stampa in inglese, il vice ministro Calenda sulla questione del prosecco italiano, uno dei vini più esportati nel mondo. Il ministro degli esteri Boris Johnson, parlando con lui, gli ha fatto capire chiaramente attenzione a chiudere le porte alla libera circolazione delle merci della Gran Bretagna in Europa dopo Brexit, perché voi ci avete il prosecco, sentite? His answer was, okay, but you are selling a lot of what we call Prosecco in the UK, which is true. We had a record year. And you will allow us to do this because you don't want to lose, you know, Prosecco export. And I said, yeah, maybe this is, we're going to lose some Prosecco, you're going to lose some fish and chips export. The difference is that I'm going to lose toward one country, you toward 27. Which means that we need to find a balance. Ci vuole quella cosa che ci manca di più, che siamo quasi tutti ai frutti quando il sole va giù. Ma vedi qualche cosa di positivo in un mai. Ci vuole un po' di mercy. Quanto potrebbe pesare però questa, diciamo, dichiarazione di diniego del ministro degli esteri britannico sulle esportazioni del prosecco italiano? Noi siamo andati a chiederlo a quello che è una delle persone più interessate in questo momento a questa questione, ma lo siamo tutti noi amanti del vino italiano, e lui è Innocente Nardi, presidente del consorzio tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Ho detto bene? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, ho detto benissimo. Buongiorno. Perché qua su una parolina si gioca tutto, attenzione. Allora, ha sentito la risposta che il sottosegretario, il viceministro Calenda ha dato a Johnson. Noi, io ho qualche dubbio che abbia risposto, diciamo, non dico correttamente, ma fornendo un valido argomento ce l'ho, perché ho l'impressione che per noi italiani il prosecco sia un po' più importante come prodotto riconoscitivo ed esportato di quanto siano fish and chips in Italia. Io non ho mai sentito nessuno che va al supermercato e compra fish and chips. Detto questo, però, quanto vale il mercato inglese per voi? Allora, il mondo prosecco esporta 90 milioni di bottiglie nel Regno Unito per circa 400 milioni di euro di fatturato. Il Prosecco Superiore, che rappresenta una piccola area, esporta 5 milioni e mezzo di bottiglie per oltre 30 milioni di euro di fatturato, che Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene è la zona storica dove è nato il successo del Prosecco. Mm-hmm. Stiamo parlando non ho capito, questa sera sta dicendo le cifre dell'esportazione nel mondo o in Inghilterra. Ed era un'interessante differenziazione, perché abbiamo anche capito che l'altro tipo di prosecco costa molto di più, perché con solo 5 milioni di bottiglie si arriva a 30 milioni di euro, giusto? Sì, praticamente il mondo prosecco è una piramide dove la parte storica rappresenta l'eccellenza di questo sistema, e che in questo momento gli inglesi, dopo aver conosciuto il termine prosecco, aver conosciuto il prodotto che chiaramente viene identificato come un'eccellenza italiana, tant'è che Johnson lo ha detto molto bene, se non accogliete le nostre richieste noi vi blocchiamo l'importazione di prosecco, penso che con i colleghi francesi abbia detto che avrebbe bloccato l'importazione dello champagne. Di conseguenza, in questo momento il Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene sta avendo un trend e una richiesta notevole proprio in questo mercato, il mercato inglese, proprio perché la gente cerca di conoscere sempre meglio il sistema Prosecco, le caratteristiche di questo mondo che ha molte sfaccettature. Certo. Ma diciamo quant'è sul totale? Ecco, cioè, esatto. questi 430 milioni, mi sembra di aver capito, di Prosecco che noi esportiamo annualmente in Gran Bretagna. Quant'è sul totale delle esportazioni di Prosecco? Il mondo Prosecco nel 2015 ha prodotto 420 milioni di bottiglie, per darvi proprio una... Vabbè, quindi è il 20%? Un 25% circa. È tantissimo. No, volevamo capire quanto dovevamo spaventarci della minaccia di Johnson. Un pochino, cioè, ci chiedevamo se era il 2% delle esportazioni di Prosecco o il 25%, come ci sta dicendo lei. No, no, il Regno Unito è uno dei paesi che maggiormente apprezza il Prosecco. Se possiamo individuare gli altri, sicuramente la Germania, la Svizzera e gli Stati Uniti sono i paesi che maggiormente importano il Prosecco. Speriamo che a Trump piaccia il Prosecco, perché se no dopo la Gran Bretagna, se si mettono in traversa anche gli Stati Uniti, finisce male. Resti in collegamento con noi, abbiamo una piccola pausa sulle informazioni sul traffico e poi cerchiamo di capire anche insieme a lei come possiamo un po' orientare questa nostra politica commerciale per non perdere questo mercato che vale il 25%. Non lo perderemo, io non credo, sono schermaglie, però la Brexit per ora è un fatto e quindi ci sono delle trattative da fare. Vogliamo capire lei che cosa, non dico chiede al governo e al sottosegretario Calenda, ma insomma se ha un messaggio da mandare. Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta E allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica. Con noi Innocente Nardi, presidente del consorzio tutela del Prosecco Superiore DOCG, questa volta ho scorciato un attimino. Nardi, quanto diciamo siete preoccupati per queste schermaglie con la Gran Bretagna, per le possibili ripercussioni? Perché insomma, lo ripeto, la notizia è questa, il ministro degli esteri Johnson, parlando con il vice ministro Calenda, gli ha detto attenzione a limitare la libera circolazione delle merci inglesi sul territorio europeo, perché voi esportate in Gran Bretagna il vostro Prosecco, noi potremmo chiudere, chiudete voi, chiudiamo noi. Calenda ha risposto, sì, però noi perdiamo un mercato, voi ne perdete, esatto, 27. Questa quindi... prima giustamente ridevamo del, sì, fish and chips, la vera cosa, lui ha fatto un esempio qualunque, come per dire, va benissimo, noi ne perdiamo uno di mercato, però voi ne perdete 27. Certo che sarebbe una magra consolazione per voi del Prosecco perdere un mercato inglese e dire sì, ma la Gran Bretagna sta peggio. Uno potrebbe dire, chi se ne frega, noi non vorremmo perdere queste esportazioni, siamo con voi, però ci dica quanto siete preoccupati a questo punto. Beh, chiaramente, come dicevo prima, con i numeri, il Regno Unito è un mercato indubbiamente importante per il mondo Prosecco. Noi siamo convinti anche che gli inglesi sono intelligenti e sicuramente non si priveranno di questa delizia italiana. Certo che dobbiamo dire che in questo momento con il Regno Unito all'interno dell'UE, per quanto riguarda il mercato commerciale, comunque protegge i prodotti inglesi, le bevande alcoliche rispetto ad esempio agli spumanti, tant'è che oggi in questi anni una bottiglia di Prosecco che viene esportata nel Regno Unito è assoggettata a un'accisa di circa 3 euro alla bottiglia, quindi in questo momento riusciamo a esportare molto anche se ci sono dei dazi che chiaramente protegge il mercato inglese. Il mercato inglese. Ma questi sono alcoliche presenti adesso o si modificheranno adesso, per la Brexit? Adesso, ah, quindi adesso già adesso, quando si parla di libero mercato, in realtà ci sono 3 euro di tasse a ogni bottiglia. Ogni bottiglia, oltre ovviamente l'IVA, la VAT, certo. Perché quindi, quindi c'è un prodotto che comunque è già assoggettato a imposte in maniera significativa. Intanto voglio prego, finisca pure. No, credo che con il Brexit queste accise forse possano essere ridotte, quindi se non c'è un pregiudizio nei confronti di alcuni prodotti, credo che il Prosecco possa trarne anche dei benefici. Addirittura potrà trarne dei benefici. Quindi la minaccia di Johnson lei non la vede da, proprio da nessuna parte. Intanto però voglio chiedere agli ascoltatori all'800 24 00 24 cosa, se bevono Prosecco naturalmente, se vogliono chiamarci, se cosa ne pensano di questa schermaglia commerciale Prosecco Fish and Chips tra Italia e Gran Bretagna. Torniamo alla minaccia non neanche tanto velata del ministro degli esteri Johnson. Quindi lei non è preoccupato perché tecnicamente non crede che sarà possibile da parte loro impedire la commercializzazione o aumentare i dazi e quindi diciamo impedire l'arrivo in Gran Bretagna del Prosecco? Ma io credo di no, perché uno non è che riducano o perlomeno proteggano i loro prodotti alcolici impedendo con il Prosecco, nel senso che in Inghilterra non c'è uno spumante inglese che possa rispondere alla domanda del mercato inglese. Di conseguenza credo che se sono ovviamente attenti gli inglesi sicuramente alzeranno eventualmente delle barriere rispetto alle produzioni inglesi, non certo a quei prodotti. Quindi non sui prodotti che non hanno un equivalente. Che non hanno, di conseguenza io credo che alzare le barriere sugli spumanti significa prendersi subito contro sia gli italiani sia i francesi. Però scusi, indirettamente ci sta dicendo Nardi che fino ad oggi per voi l'unione commerciale e l'Unione Europea dal punto di vista della libertà di circolazione delle merci non ha portato particolari giovamenti? No, ha portato indubbiamente dei giovamenti per quanto riguarda la velocità delle esportazioni. Se noi pensiamo che molte volte un camion parte oggi dalle nostre zone del Conegliano Val d'Obbiadene e nel giro di 24-48 ore porta il prodotto direttamente nel territorio di Londra, se non del Regno Unito in generale. Quindi questo è un aspetto indubbiamente importante al quale chiaramente il quale ha permesso questo grande flusso di prodotto verso il Regno Unito. Senta, mi scusi, siamo quasi in chiusura. Io una domanda però devo fargliela anche su questa questione dei servizi di report che hanno diciamo fatto delle accuse abbastanza pesanti ai produttori, un eccesso di pesticidi lamentato da alcuni testimoni della zona che dicono che si usano forse con troppa facilità questi prodotti chimici nelle zone del Prosecco. Cosa risponde? Ma guardi, credo che il Conegliano Val d'Obbiadene abbia fatto un percorso qualitativo di rispetto dell'agricoltura sostenibile già da molti anni e credo che sia una delle zone più attenta all'uso di queste sostanze, una delle zone viticole europee più attenta a queste sostanze. Chiaramente siamo una zona dove la concentrazione e la coltivazione della vite è importante, dove un sistema pubblico e privato sta cercando sempre di più di controllare e rendere il territorio qualitativo, sì. Gli enti pubblici hanno evidenziato che questo non è un problema. Va bene, grazie Nardi. Grazie. Del Consorzio Prosecco. Cerchiamo un personaggio della settimana che fa parte della vita di tutti i giorni. 800 24 00. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Now, I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me. There have been a few times this past week when All I wanted to do is just to curl up with a good book or our dogs and never leave the house again. But if there's anyone who knows how to pick yourself up and get back on your feet and get to work, it is Marion. And e questa, buongiorno a tutti ascoltatori da Alessio Maurizi di nuovo e da Carlo Gabardini alle 9:09 minuti del mattino. Questa era Hillary Clinton nella sua prima uscita pubblica dopo la sconfitta alle elezioni americane. Si potrebbe ironizzare molto su di lei, su quello che ha detto. Ha detto fra l'altro che voleva solo stare chiusa in casa leggendo libri con i suoi cani e non voleva più uscire. E infatti... non ha citato però Bill Clinton, non ha detto con mio marito. Chissà perché, il marito no. È fuori, il marito aveva altro da fare. Sì, devo dire che subito dopo l'elezione di Trump dire io non volevo più uscire di casa per un giorno, quando ci sono adesso persone che dicono noi adesso però non vogliamo più uscire di casa per 4 anni, per quindi tutta è la peggio vita, per tutta la vita. Vabbè, insomma, hai sentito, ha fatto un appello a non perdersi d'animo agli elettori, era più rivolto a se stesso forse. Sì, che sì. In versione Simona Ventura direi, no, una rendersi mai. Esatto. Allora, sentiamo invece però la voce di Donald Trump su una questione importante, che è quella delle espulsioni dei clandestini, perché tra prima delle elezioni, in campagna elettorale, e dopo sta cambiando qualche cosa. Sentite qua. What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Allora, quello che ha detto in questa intervista, in questo passaggio di questa intervista, è a proposito delle espulsioni di clandestini, che tra l'altro sono state fatte in passato, ma nessuno lo ricorda, anche da Obama, perché è una pratica dell'America quella di prendere i clandestini che entrano alla frontiera col Messico e in qualche modo rispedirli dall'altra parte. Aveva detto 11 milioni di clandestini prima, durante la campagna elettorale, adesso siamo arrivati a 2-3 milioni, 2 forse 3 milioni. Ma soprattutto perché bisogna beccarli, perché questo in campagna elettorale tu spari, dici 11 milioni, ma nel momento che arriverai tu al governo, se dici i clandestini sono 11 milioni, la domanda subito dopo gli americani è: e mo vai a beccarli tutti e 11 milioni? Questo perché è vero. Sennò come fai a dire 11 milioni? Cioè, se sai chi sono, ovvio che vanno espulsi, cioè non è che l'espulsione sia per sé una pratica che sì, non funzioni, però è il problema. Ma che prima devi beccarli, devi questi beccarli, 3 milioni devi beccarli. E io poi decidere dove mandarli. Se fossi un elettore di Trump adesso andrei da lui e direi: no, avevi detto 11 milioni, adesso devi andarli a prendere 11 milioni, non 2 milioni, perché non vale dire 11 milioni in campagna elettorale e poi già il giorno dopo le elezioni dire 2 milioni. Anche perché si insedia a gennaio, direi che se facciamo un grafico probabilmente per gennaio i clandestini saranno 17, esatto. E allora invece vediamo ai trumpisti di casa nostra, vai. Noi non a questo o quel capo o capetto del centrodestra, ma alla maggioranza degli italiani offriamo un programma che in buona parte è quello che ha eletto Trump presidente degli Stati Uniti: meno immigrazione e più sicurezza, meno tasse con un'aliquota unica, dazi sui prodotti cinesi e certezza della pena. Quindi tutto il resto è noia. Però con Trump ho pochi punti in comune, sì, è vero, siamo entrambi imprenditori, ma anche la sua storia come imprenditore è molto diversa dalla mia. Io ho sentito oggi, per dirne una, che Trump rinuncerà a $400,000 l'anno come presidente degli Stati Uniti d'America, e secondo me questo è un buon segnale. E quest'ultimo era, che ridi, era Umberto Fico. Rido perché quest'idea che comunque se molli lo stipendio allora è un bel segnale, allora sei una brava persona, per una persona che evidentemente non ha bisogno di guadagnare e lodevolmente, non dico di no, decide di non prendere i 400.000 dollari ma di farsi pagare un solo dollaro, però prendere questo e dire quindi evidentemente è una brava persona, insomma, vabbè, però forse è meglio prendere questo piuttosto che dire addirittura prendo tutto il programma di Trump, che forse è una delle cose più critiche criticate al mondo il programma di Trump. Invece Salvini dice: io quello è il programma che voglio fare io, l'unica cosa è meno immigrazione, meno tasse, certezza della pena, tutto il resto è noia. A me sembra molto noioso un paese che si occupa solamente di questo, cioè che manda via tutti, poi non si pagano le tasse e c'è la certezza della pena. È interessante. Questa mi sembra noia, ma comunque. Interessante invece notare come Silvio Berlusconi, sotto traccia, quanto volete, però chissà ancora quanto fa presa sull'elettorato la posizione di Silvio Berlusconi, che tanto, per tanti anni ha fatto molta presa sull'elettorato, si distingue e dice: attenzione, perché non so se è una cosa personale nei confronti di Trump o se è una cosa nei confronti di Salvini, a cui non vuole concedere lo scettro del centro-destra, o cos'altro ancora. Comunque è anche un po' una guerra fra imprenditori, non hai questa sensazione, no? Che dice: sì sì, va bene, siamo tutti due imprenditori, due uomini, ma simili, molto, ma diversi. 800 24 00 24, ci chiama intanto Maurizio da Como. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto Maurizio. Buongiorno. Io ho sentito una notizia che ci sono dei problemi sulla produzione dell'aglio cinese, o per questione di prezzo, che ne produce l'80% a livello mondiale, e ci sono dei problemi. Essendo l'aglio... No, mi viene da ridere perché stai rispondendo, credo, al personaggio della settimana, Maurizio. Sì, sì, sì. Ah, io non, vedi, io non l'avevo capito, perché pensavo ci stessi chiedendo a noi, dicevo, porca miseria, che cosa ne so io dell'aglio cinese? Adesso mi informo tantissimo. Quindi, come personaggio, intanto diciamo che è sicuramente giusto, ricordiamo che noi il personaggio non per forza deve essere un essere umano, quindi accettiamo, esatto, assolutamente la risposta. E ci stava anche perché... che ho sentito... Bravo, no, perché è una specie di guerra commerciale anche questa. Siccome siamo partiti dalla guerra commerciale sul prosecco tra l'Italia e la Gran Bretagna, tu giustamente hai fatto 2+2 con l'indizio. Non è questo il personaggio della settimana, questo, che andiamo cercando, caro ascoltatore, caro Maurizio. Un personaggio che fa parte della vita di tutti i giorni non era l'aglio cinese. Dobbiamo dare un altro indizio? Aspettiamo un attimo questo giro, bene, poi giusto, vediamo. Giusto, dai. Giusto. Lucia da Torino, buongiorno. Buongiorno Alessi, allora volevo ribadire a proposito dell'intervento del Prosecco, sì, che i fertilizzanti nella zona di Santo Stefano Belbo, nelle Langhe, hanno creato dei gravi problemi alla produzione. Però nelle Langhe, quindi non nel Prosecco, scusi Lucia. Non vorrei mai avere dei guai, Lucia, però se Lucia si informano, sì, sapranno che ci sono stati dei seri problemi in quella zona. Ok Lucia, però stiamo parlando, lei sta chiamando a Torino, parla delle Langhe, quindi sì, non del e Prosecco. Santo Stefano Belbo che è nelle Langhe. Sì. Che è il paese di Cesare Pavese, ricordiamolo. Sì, Lucia, pronto? Lucia, mi sente? Pronto? Lucia? Ecco, io la sento. Sì, lei sta parlando però delle Langhe, quindi non delle zone del Prosecco, sta parlando di fertilizzanti usati. No, però le Langhe producono anche una specie di Prosecco, un Brut molto buono, e non so se questo viene venduto in Russia. Sta di fatto che invece ci sono stati dei seri problemi, sì, con, sì, i fertilizzanti. Va bene, Lucia, quindi abbiamo colto il segno del suo... cioè lei dice, attenzione, perché in un'altra zona, un altro vino, un'altra situazione, non è il Prosecco, ecco, è le Langhe, hanno avuto anche il patrimonio, il riconoscimento del patrimonio UNESCO, quindi una zona, figuriamoci, ultra riconosciuta. Con l'uso dei fertilizzanti si va incontro a dei rischi se si esagera, e questo è quello che report ha detto del Prosecco, con lo stesso argomento. Abbiamo sentito il presidente del consorzio, che ha detto: siamo una delle zone più controllate al mondo, eccetera eccetera. Autodifesa d'ufficio. Noi siamo partiti da un'altra notizia, in realtà, che è la decisione del ministro degli esteri inglese Johnson di minacciare l'Italia sull'esportazione del Prosecco per quanto riguarda le trattative sul post-Brexit. 800 24 00 24, vi aspettiamo, cerchiamo un personaggio anche della settimana che fa parte della vita di tutti i giorni. Che facciamo? Lo diamo un altro indizio? Diamolo, sì. L'altro indizio è che il nostro personaggio è ingombrante. Quindi con l'aglio andava bene, anche con l'aglio, visto? Sì. 800 24 00 24, tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, e che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà posto e ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazionale. Allora, è il momento di dare il buongiorno, buona domenica al nostro super ospite di oggi, Paolo Crepè. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi di domenica mattina. Crepè, che sarà grazie protagonista invece oggi di un incontro a Milano in occasione di Book City alle 14, lo diciamo subito per chi non volesse perdersi questa occasione, alla libreria Mondadori, Piazza Duomo, per parlare del suo nuovo libro. Baciami senza rete. Baciami senza rete. Posso dire che alle 18 hanno cambiato orario. Scienza. Ah, beh, no, allora, straordinario. Mondadori è solo vado lì a firmare. Ah, ok, no, giusto, il firmacopie, c'è il firmacopie. Museo della Scienza. E invece Museo l'incontro vero. Perfetto, perfetto, ha fatto bene a dirlo. Allora, se anche due come J-Ax e Fedez in questa canzone in qualche modo ci insinuano questa questione degli eccessi della vita da connessi, del fatto che è più importante, come dicono nella canzone, un'emozione condividerla che viverla, cominciamo a preoccuparci. E lei si preoccupa già da un po', ha scritto questo libro che è poi una summa di tutte queste preoccupazioni. Glielo dico subito, Crepè, anche noi ci siamo messi un po' a seguire questo tipo di ansie, cioè questi occhi puntati sullo smartphone che non guardano più le persone di fronte, e quindi stiamo sondando un po' cosa si può fare, come si può vivere in questa fase in cui la connessione è bella, ci piace, siamo tutti felici, però ci sono dei però, insomma, no? Sì, sì, però fare come stiamo facendo adesso, possiamo parlare, non è... guardi, è molto, io vedo molti ragazzi e qui è molto difficile proporre la telefonata, per esempio, è diventata una cosa ottocentesca. Cioè il telefono che servirebbe per telefonare in realtà No, diventa qua perché, ma c'è un motivo, perché se tu non sei più abituato a certe emozioni, diciamo, chiamiamole umanoidi, la voce è emozionante, cioè, quando uno fa una telefonata, perché lo guardi, lo facciamo tutti, anch'io, sì. Molte volte io evito di fare una telefonata perché so che poi magari poi quello mi dice si turba, ha un problema, no, ma quello mi dice, mi comincia a raccontare una... Invece il messaggino è secco, no? Dobbiamo fare questa è anche molto comodo, no? Sì, quindi giustamente è molto comodo, e giustamente dice che lo usa anche lei, nel senso che è molto... Per un certo tipo di comunicazioni conviene un SMS. È comodo, è vero, però... Sarebbe poi... così, sì. Sarebbe, ma non è così, perché poi a forza di usare queste cose abbiamo capito che la comodità deve sempre vincere e alla fine poi ci troviamo... insomma, basta andare in un ristorante, si vede gente, ma non solo i ragazzi, non so, magari fosse solo un problema giovanile, non è affatto un problema, cioè, ci sono anche i nonni che si mettono a chattare ormai, quindi è un problema proprio di crescita emotiva, perché pensiamo a un bambino, perché poi la vostra trasmissione si chiama Che cosa si può fare, quindi cerco di dare un aiuto in questo. Che cosa può aiutare un bambino oggi in una scuola? Riempirla di smartphone, di tablet, di cose, oppure rieducarli alla manualità, per esempio? Io sono convinto che la seconda sia il futuro, non sia il passato. Cioè che il futuro sia la manualità? Assolutamente sì, nella maniera più assoluta. Guardi, io sa cosa farei in una scuola molto avanzata, moderna, eccetera, eccetera? Corsi di buona calligrafia. Ma sa perché? Perché rimettere in moto questa cosa che si chiama mano, mano che non è solo un arto, è molto di più. Beh, però la mano la usiamo molto di più di prima, perché abbiamo sempre uno smartphone in mano e creiamo continuamente e scriviamo prima molto più di prima di quanto non scriviamo ora. Una falangina, lei usa una mezza falangina. Non ho la mezza falangina, disse Crepera sorridendo, cioè quello il ditino che scorre sullo schermo. A me ha colpito una cosa di quello che lei dice, cioè questo senso di obbligo di essere connessi, perché è una sensazione che in effetti ogni tanto sfiora anche a me che vivo sull'iPad, sullo smartphone, che anch'io mando milioni di messaggini, faccio meno telefonate di prima, vivo in questa comodità, però in effetti c'è un qualcosa che ogni tanto mi dà la sensazione di sentirmi obbligato, e non è una cosa che non ci avevo mai pensato. Però è un problema questo senso di obbligo. Perché lei vede che ci sono persone che si sentono costrette a essere connesse? Allora, queste cose di cui stiamo parlando sono mercanzie, non sono la tecnologia digitale non è stata inventata dai poeti, è stata inventata da dei mercanti. Mettiamo le cose come stanno, perché sennò non ci capiamo. Vabbè, anche la stampa, però, se vogliamo, insomma, sì, però cioè... a monte ci sono delle grandi aziende che fanno miliardi, miliardi, miliardi. Queste aziende che fanno miliardi, miliardi, non sono stupide, sono intelligentissime, prendono i migliori ingegneri. E che cosa devono studiare? Devono studiare un prodotto che non solo voi comprate e io compro, ma questo prodotto deve avere al suo interno una sorta di meccanismo di fidelizzazione, cioè un qualche cosa che fa sì che quella cosa lì, come la cocaina. Le notifiche, questi pallini rossi che ti spingono compulsivamente a cliccare. Il capitolo del mio libro sulle notifiche. Questa roba terrificante, no, perché non puoi accendere, che tutti sanno che se stai dormendo, se stai viaggiando, cioè è una cosa... Ma via la libertà. Beh, però esiste una funzione del telefonino per cui uno può dire di non essere riconosciuto, quindi nemmeno quando leggi WhatsApp viene riconosciuto. Ha capito. Questo, per me, io che sono nato libero e sono cresciuto libero, l'idea che io non possa andare a dormire alle 4 di mattina perché insomma ho mandato un messaggio e qualcuno viene a sapere che io sono andato alle 4 di mattina e mi dico come mai sei alle 4 di mattina, cioè è una cosa che vincola fortemente la mia libertà. Senta Crepe, però siccome la geolocalizzazione, siccome ci sono, però le madri che geolocalizzano dei figli, ma non di 2 anni, di 25. Va bene, questo succede, è uno dei motivi per cui spesso i genitori danno i cellulari ai figli per sapere, per poterli controllare. E anche questo è un capitolo, esatto, che ha a che fare poi anche su come cresceranno questi bambini. Ma siccome però indietro non si torna, lo sappiamo tutti, no? Perché non è che si torna indietro. Esatto, e con una bella grafia non si va molto lontano. No, ma come si fa ad andare avanti, non so, consapevolmente? Lei ha dei suggerimenti, dei consigli, delle indicazioni, su come... mantenersi in equilibrio, su come surfare in questa situazione? Ma guardi, intanto c'è una diffusione di un'idea che si chiama digital detox, cioè un'idea di fare qualche cosa per detossificarci. Io credo ne parliamo molto spesso, noi siamo degli appassionati anche di questo. Costretti a usare l'inglesismo anche noi. Non è così complicato, neanche eroico, l'idea che uno un weekend possa anche lasciare il telefonino a casa. Però è un bel esperimento da fare, perché in realtà, diciamo, forse non è eroico, ma si avvicina molto all'eroismo in dei momenti. È difficile. No, no, però può essere istruttivo provare a farlo. Ho capito, mio papà ha fatto la guerra e io cercherò di fare questa. Certo, giusto. Fare più semplice e anche meno pericolosa, francamente. Quindi un po' di coraggio ci vorrà, ma mi pare... Cioè l'idea di andare con una fidanzata a cena... senza avere il telefonino non mi sembra una roba. Ma lei l'ha mai fatto? Ma io sì, io faccio, io ma certo, io il mio telefonino. Ma noi l'abbiamo fatto in passato, abbiamo un'età nella quale lo abbiamo fatto oggi è anche molto romantica questa idea, devo dire. Personalmente la trovo molto romantica come idea. No, ma io lo trovo molto molto di cattivo gusto andare col proprio partner al ristorante dove vai e metterti lì, io lo trovo veramente irritante. se il mio partner si mette a fare mandare i messaggi alle sue amiche, a me mi girano. Io e mia moglie funziona così, io mi irrito con lei e lei si irrita con me, perché tutte e due facciamo la stessa cosa, solo che ce la rinfacciamo a vicenda perché non ci accorgiamo che lo stiamo facendo. Quindi insomma, digital detox, provare a stare per esempio un weekend senza, oppure qualche altra idea? Penso di sì. No, per esempio io penso che le ferrovie dello Stato dovrebbero fare delle freccia rossa con delle carrozze solo per bambini, e in quelle carrozze i telefonini non devono prendere. Sarebbe molto carino che le famiglie, guardi, io l'ho visto l'altro giorno, una famiglia danese stava viaggiando con me, sì. Io viaggio molto in treno, erano quattro, padre, madre, due figli, e hanno fatto una cosa rivoluzionaria, sono stati tre ore a dipingere. Con i pastelli, con le cose io sono rimasto cose dell'altro mondo, far trovare carta, penna e calamaio anziché il wifi, potrebbe essere. Viaggi con tutta la famiglia, ma divertiti, no? Gioca a carte, fai qualcosa, dipingi, fai, i bambini ridevano in continuazione, no? E vengono su intelligenti invece che avere dei specie di zombie che con la testa curva che girano per la casa. Io un bambino così mi fa pietà. Però a me farebbe più paura se i miei mi obbligassero a dipingere coi pastelli in treno, nel senso perché ho delle grosse difficoltà a disegnare, in più in treno si muove tutto, ecco, non è proprio esattamente il posto migliore dove dipingere coi pastelli. Posso assicurare che con la freccia è fantastica. Allora, perché diventa un gioco, capisci? Diventa un'interazione tra persone. Beh, questo è anche internet, ha esattamente descritto una chat, interazione fra persone, quindi in realtà giustamente lei dice perché non si può giocare a carte in treno, si può giocare a carte e c'è chi lo fa con i telefonini, nel senso che il problema del telefonino è se ti chiude in un mondo che è solamente tuo, nel momento in realtà aiuta ad essere iperconnessi, quindi semmai troppo connessi, quindi con troppe altre persone, non con troppo poche. Sì, che non conosci però, non so neanche chi sei, perché essere connessi con Chiocciolina 64. Non ti aiuta avere delle però è simpaticissima relazioni. Chiocciolina 64 perché l'ho conosciuta poi allora di Porto di Genova. Paolo Crepè, esatto. Autore di Baciami senza rete, un incontro che ci sarà tra l'altro stasera alle 18 al Museo della Scienza a Milano, vivere iperconnessi all'interno di Book City. Le voglio fare ancora un paio di domande, anche una su Trump, perché da psichiatra a me interessa Trump e gli elettori di Trump, però c'è un ascoltatore, se ha ancora qualche minuto per stare con noi Crepè, certo. Che forse magari fa un intervento, può essere interessante anche per lei. Leo da Bari, buongiorno. Buongiorno. Prego, Leo. Sì, io ho impiegato una settimana, ma 4-5 ore al giorno per imparare a scrivere decentemente le maiuscole e per fare un testamento scritto a mano, perché il testamento deve essere notario, va scritto a mano. Deve essere olografo, giusto? Ma era il suo testamento, Leo? Sì, il mio testamento. Ho impiegato una settimana a imparare le maiuscole. Perché aveva disimparato a scrivere, Leo? Recentemente. Sì, ma scusi, ma lei ha un'età, cioè in senso, 68 anni. Quindi sa scrivere, saprebbe. Sì, io ero un asino a scuola, però ricordarsi le maiuscole, la F, eccetera, è stato complicatissimo. Ma lei vive iperconnesso? Seriamente. Sì. So di essere un coglione, no, mi scusi, un po' anziano, ma. Sì, ma non c'è nessun problema. Mi scusi, ma le maiuscole nel senso che non sapeva quando si deve mettere una maiuscola o stiamo parlando di grafia? Sì, però la maiuscola, la F maiuscola fatta perfetta, io sfido chiunque della mia età a farla. Però io sfido chiunque a fare una F maiuscola, perché ricordo anch'io che è una cosa complicatissima. Beh, Leo si è inserito nel filone del discorso di Crepè sulla calligrafia. Non ho capito quanto c'entri il tema della connessione, Crepè. Però c'entra molto quello dei testamenti, perché siccome il testamento deve essere olografo, quindi è interessante che quello è proprio il momento, come giustamente ricordava Crepè, che in cui ti rendi conto che dici: ma io non so scrivere bene perché non me l'hanno insegnato. E quindi in quel momento te ne rendi conto. Me l'ha detto un postino qualche tempo fa, sì. Ha detto che lui ci mette un sacco di tempo a capire, a decifrare via Carducci piuttosto che via Mazzini. Perché ormai la gente scrive male. Quindi abbiamo scoperto il problema dei ritardi delle poste, quindi. Cioè il problema dei ritardi delle poste è che non si studia più calligrafia nei licei italiani. Te ci scherzi, ma sono cose serie. Però si può fare l'etichetta stampata con un'app. Mamma mia, lasciamo perdere. Senta Crepè, Trump, veniamo a Trump, perché noi sappiamo che in politica c'è sempre una componente di populismo, si fanno delle proposte, delle promesse elettorali, ma in questo caso Trump ha fatto delle promesse più estreme degli altri, forse perché gli altri non credono in quelle idee, la Clinton forse semplicemente perché alcune di quelle idee sono molto complesse da realizzare, per esempio espellere 11 milioni di clandestini è molto complesso, infatti Trump il giorno dopo le elezioni ha detto forse 2-3 milioni. Allora io mi chiedo, è patologico questo livello di menzogne, che sono delle menzogne, o è patologico Trump, o sono patologici gli elettori che ci credono, oppure in fondo è la solita politica normale che fa promesse esagerate? No, non è la solita politica, è una politica nuova, è la politica digitale. Vede, se io dico espelliamo tutti i messicani dagli Stati Uniti, e questo sta dentro un tweet, è perfetto, è forte, aggrega, divide il giusto, sì. Per cui diventa virale, che poi ci sarà qualcuno che mi dice fascista, mandi via i messicani, cosa c'entra? No? E questo mi aiuta, perché diventa virale il mio messaggio. Quindi tutto questo è studiatissimo. Cioè è pura comunicazione. Comunicazione, certo. Dopodiché cala e si pari, ho vinto, scusate, adesso devo fare la politica. La politica non sta dentro un tweet. La politica è complicata. Ho la sensazione se anch'io che andrebbe detto a Renzi, Putin, per esempio, pure che la politica non sta dentro un tweet. Penso di sì, lo sa benissimo anche lui, ma come no? Certo, non possiamo fare battute, cioè risolvere, perché questo funziona. C'è un bravissimo ragazzo che si chiama Gippi, che è un grande illustratore, certo, come no, che ha detto una cosa bellissima, ha detto: se io fotografo un quadro e lo metto sulla rete Instagram, dove volete voi, ho 1000 followers, se io fotografo quel quadro e metto una didascalia che divide, io ho 100.000 followers, perché la rete è fatta così. Cioè, quindi, come dire, i social network si adattano molto a questi messaggi divisivi. Questo è un po', certo, questo ce ne certo, siamo accorti. È ovvio, quello che dice De Luca è una battuta, no? Di cattivissimo gusto, no? Però diventa virale perché è l'unica cosa che è comprimibile. Però Crepè, questo non succedeva anche in passato, entrando al bar uno sparava una cosa aggressiva e funziona politica, di anche più Andreotti faceva le battute. Che non dire buongiorno, vi voglio bene, ecco. Sì, però al bar, lo diceva anche Umberto Eco, rimaneva chiusa lì. Sì, si rimaneva lì. Io ce le ho frequentati molto, essendo veneto, le osterie so cosa sono. E quindi lì va benissimo, no? Poi l'imprecazione, la battuta un po' volgare, era perfetta tra quattro amici, come diceva Gaber. Il problema è quando devi costruire un'idea. L'idea non la puoi fare con le battute. La tribuna politica di quando ero ragazzo non era una battuta dietro la, era un ragionamento condivisibile o no, attaccabile o meno, però c'erano dei ragionamenti da una parte e dall'altra parte. Quindi il fatto che adesso sia tutto molto condensato, allora o pensi di essere un Garetti e ti do una notizia, è morto, oppure sono problemi sul tweet. Oppure senta Crepè, un'ultima cosa le voglio chiedere, è più per lei è più devastante questo populismo di Trump, perché dall'altra parte abbiamo, sempre a proposito di linguaggio, di comunicazione, l'ipocrisia di un personaggio come Hillary Clinton, viene accusata di ipocrisia, di dire cose e poi di farne altre, no? Cioè sì. In quale delle due situazioni abbiamo un effetto psichiatrico, anche mi viene da dire, più devastante? Beh, l'ipocrisia è brutta. L'ipocrisia è inganno. Ipocrisia è inganno, faccio finta di essere democratica, in realtà non lo sono, e questo nei confronti della gente non è carino. perché poi dobbiamo pensare che non siamo tutti lì a leggere i giornali, anche in controluce, c'è gente che lavora, che ha poco tempo anche di pensare, quindi la comunicazione, se è falsa, se è ipocrita, è brutta nei confronti delle persone che non hanno strumenti culturali adeguati per capire cosa c'è dietro. Tutto sommato il populismo io lo temo meno, perché il populismo, sai, viene su, poi bisogna vedere, no? È come, no, quando uno diceva, no, dividiamoci tutti, facciamo, no, la Repubblica del Nord, lo diceva qualcuno, mi pare, no? In Italia, e poi si è capito che si poteva fare, quindi poi a noi non si può fare, non ci conviene proprio, no? È come, è esattamente la stessa cosa che adesso dovrà fare Trump, mettendosi d'accordo con i cinesi, perché il bello di tutta questa cosa qua è che poi scoprirà, come si dice a Napoli, di essere il gallo in coppa a monnezza, perché non è capo di niente. Nel frattempo, tra Obama e Trump, c'è stato un problema, che il mondo è andato a Oriente, non è più a New York, non è più Washington. Però appare che i cinesi apprezzino Trump proprio perché, perché lo temono meno. Comunque a questo giro il populismo ha battuto l'ipocrisia 1-0. Staremo a vedere. Noi ringraziamo intanto Paolo Crepè. Grazie a voi. Viveri per connessi, l'appuntamento oggi alle 18 al Museo della Scienza, il suo libro Baciami senza rete, se vi ha convinto 800 24 00 24. Andiamo in pausa e torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora è il momento di José che ci chiama da Brescia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, pieno di entusiasmo. José, su cosa volevi intervenire? Sulla domanda che avete fatto, scusatemi che ho perso 5 minuti della trasmissione, però mi è venuto in mente, anche sentendo al signor parlando, che forse era la risposta del WhatsApp con la nuova videochiamata per questa... che è stato il mercoledì, giovedì, mi sembra, sì, che arriva la notizia, no? Allora, Carlo, tu che sai tutto di WhatsApp, WhatsApp che ha introdotto le videochiamate, quindi sì, non i messaggini di cui parlavamo prima, non i messaggi vocali di cui parlavamo prima, ma le videochiamate, quindi audio e video. Quindi José dice, come personaggio potrebbe essere questo. Intanto José, ti tranquillizziamo, il fatto che tu abbia perso 5 minuti della trasmissione non è assolutamente un problema, non è che chiediamo, non è che facciamo domande su quello di cui abbiamo parlato. Detto, forse qualcuno gli ha la risposta, però mi è venuto in mente. No? Nessuno ci aveva ancora detto WhatsApp, è una bellissima risposta. Risposta sarebbe perfetta, perché noi non scegliamo sempre personaggi però che debbano essere umani, ma non lo è, esatto. Non è. Grazie, grazie per sé, grazie. Grazie mille. Per parlare con voi comunque, grazie. Grazie, ci fa piacere, un abbraccio. Beh, in effetti WhatsApp, l'abbiamo appena finito di dire, con Crepè può essere anche ingombrante e fa parte della vita di tutti i giorni. Bravo, assolutamente José, bravo, ma non era quello. Giovanni da Milano. Giovanna, prego. No. Buongiorno. Allora, avete appena parlato di WhatsApp e qua io mi introduco, sì, sul fatto che sia molto ingombrante, sì, ed è vero. Hanno messo anche delle cose per renderlo ingombrante e molte persone sanno come renderlo meno ingombrante. Esatto. Faccio un esempio. L'altro giorno mi è arrivata una telefonata e una persona mi mandava i messaggi, io non volevo rispondere, e questo mi dice, perché tu non leggi mai i messaggi di WhatsApp? Io dico, certo che li leggo, ma non c'è la spunta blu. Basta disattivarla. Si può disattivare la spunta blu? Si può disattivare. Io non lo sapevo, vedi che imparo delle cose la domenica mattina. Però è cattiveria, se disattivi la spunta blu, nessuno saprà mai se hai letto. Non hai letto nel senso che. Questo è il punto: la mia libertà è poter leggere. Sì, giustissimo. No, è vero, Giovanna. È un esempio di quello che diceva. Ha ragionissimo ed è molto preciso. E vedi, però, Carla, è un esempio di quello che diceva prima il signor Crepè, cioè questa cosa delle notifiche, dell'aggiornare continuamente. Cercavamo di spiegare, però, al signor Crepè, perché si può eliminare questa funzione, quindi non serve lamentarsene, se è una scelta. Bisogna farlo. Io per esempio non lo sapevo, adesso che lo so, chissà, potrei anche disattivare la spunta blu. In ogni caso, Giovanna, grazie anche a lei per il suo intervento. WhatsApp candidato anche come personaggio della settimana, ci stava. 800 24 00 24, però visto che non l'avete indovinato, diamo il terzo indizio. Il terzo indizio: il nostro personaggio è volubile. Volubile. Ingombrante di tutti i giorni, ma è volubile soprattutto. Quindi pensate a questa parola: 80024. Ci sono i biglietti della mostra di Basquiat allo splendido Mudec di Milano che vi aspettano al primo che indovina. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento. Ecco qua Mika, che sta andando forte in TV con il suo show musicale sulla Rai. Sono d'oro la generazione che canta Mika in questa canzone, i giovani. Spazio ai giovani. Da Comune di Roma arriva l'iniziativa e con noi l'assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, Luca Bergamo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Buona domenica, grazie per essere con noi di domenica mattina. Allora, ogni volta che vediamo iniziative di questo genere ci entusiasmiamo, ci vogliamo credere, perché insomma, se vuole, sono tanti luoghi comuni, spazio ai giovani, i giovani, la creatività, devono crescere, devono dare il loro contributo alla nostra società, e però spesso si fa, non ci sono posti, non c'è spazio proprio fisico. E invece voi avete lanciato questa iniziativa, di che si tratta, assessore? Abbiamo cominciato a lavorarci sopra, perché tecnicamente non è facilissimo. L'idea è molto semplice: la città, il comune, è, diciamo, proprietario in tutti dei cittadini di una serie di spazi, sia nel centro che nelle periferie. Ci sono spazi minori, spesso non utilizzati o sottoutilizzati. O vuoti, anche, e, sì, molto spesso, sì. E in realtà stiamo cercando di capire in che modo noi possiamo darli a costo zero in gestione a gruppi di ragazze e ragazzi. L'idea è una fascia tra i 16 e i 25. Avete scelto questa fascia d'età, interessante, perché avete proprio messo, come dire, una forchetta, cioè tra 16 e 25, puntate proprio tra i giovanissimi. Non è ancora nulla di normato, sì. Stiamo lavorando sul progetto, sì. Comunque l'intenzione è quella, quindi i giovanissimi, quelli che cominciano, no, a suonare, a fare teatro, insomma, a fare attività prima che occupino loro degli spazi, diciamo. Esatto. Che possano di fatto animarli con una programmazione che è prodotta, curata da loro interamente, senza avere per questo risorse da noi adesso, ma avere uno spazio che a costo zero è totalmente funzionante. Abbiamo letto anche del costo, in realtà, che voi vi accollereste il costo di funzionamento del, perché spazio, certo. Ovviamente se uno ha 16 anni non è che gli si può chiedere anche poi di pagare le bollette. Assolutamente, non solo, io sto cercando di capire se noi possiamo farlo senza chiedere che loro siano un soggetto giuridico, perché sono gruppi informali di ragazzi, e questa strada è stata sperimentata nel passato anche dall'Unione Europea con delle difficoltà in Italia. Però magari trovare una forma per cui sono gruppi informali di ragazzi che sono garantiti da una società. Perché è complicato in Italia poter dire un comune, perché io mi metto nei suoi panni, no, arriva assessore alla cultura a Roma, dice: abbiamo degli spazi vuoti, no, però io invece magari sì, un domani, perché no, ci sono degli spazi vuoti, io ho questa volontà di affidarli a associazioni, gruppi, giovani anche informali, che ci facciano quello che gli pare per la loro crescita. A me tutto sommato non costa niente, perché questi spazi per l'appunto sono vuoti, al massimo li devo dare un imbiancata e pagare la bolletta della luce. Un comune come Roma può farlo per far crescere una generazione di ragazzi in maniera migliore, però non si può fare, perché bisogna dare una struttura giuridica alla cosa, perché ci sono delle norme, che succede? È molto semplice, noi siamo un paese che continua a produrre, no, norme su norme per prevenire abusi. Il risultato è che a forza di costruire norme su norme per prevenire abusi, noi rendiamo praticamente impossibile qualunque cosa che non sia, diciamo, iperregolata. Una di queste, per esempio, molto difficile in generale, è quella di dare la responsabilità di qualunque cosa a soggetti soggetti che non siano soggetti giuridici, cioè che non siano organizzazioni no, formalmente riconosciute. È un difetto del nostro paese, noi abbiamo questa abitudine di fare delle regole per cui dobbiamo scrivere tutto quello che si può fare invece di fare come si fa in altre parti del mondo, elencare quello che non si può fare. Tutto perché voi, lei vorrebbe dare questi spazi anche non necessariamente a delle associazioni strutturate no, o a... No, infatti vorrei darli onestamente vorrei darli a gruppi di ragazzi e ragazze che sono anche diciamo, soggetti mobili, no? Non hanno bisogno, perché non c'è un rapporto economico in realtà, che si programmano, fanno una programmazione di attività culturali all'interno di quello spazio per un certo periodo, anche a rotazione, quindi consentendo no, che non sia non sempre gli stessi, no, sia il luogo in cui accadono queste cose a cura di diversi gruppi. Stiamo lavorando, penso che ci metteremo un po' di mesi per trovare una soluzione, sono abbastanza fiducioso di riuscire a trovare. Gli spazi ci sono, sì, quanti sono questi spazi? Adesso io in realtà volevo fare prima di tutto una sperimentazione in un posto che prestigioso a sua volta, perché è proprio al centro di Roma, adesso è a piazza, accanto alla sede dell'assessorato della cultura, che si chiama Sala di Santa Rita, una chiesa sconsacrata che oggi l'amministrazione comunale utilizza per farci singoli eventi, e non ha una personalità, quindi è un posto che si presta e che viene anche già oggi utilizzato qualche volta da scuole di musica per farci i propri saggi, piuttosto che... E poi ce ne sono tanti altri spazi diciamo, fuori dal centro della città che ciascun municipio può trovare nel proprio patrimonio e che si possono utilizzare in questo modo. La mia idea è di fare una sperimentazione di un periodo di 6 mesi, un anno, su un numero limitato e poi... di luoghi. Senta, però, Assessore, le voglio fare una domanda, siamo quasi in chiusura, non abbiamo molto tempo, un minutino, però è importante. Lei ha detto vorrebbe aprire a tutti i ragazzi, non solo a chi è già un ente giuridico in qualche modo. E questa è una questione, ci voglio tornare per un attimo, perché molti di quelli che ci stanno ascoltando sicuramente pensano, questi bandi, questi spazi vengono poi ceduti sempre agli stessi, gli amici degli amici, le stesse associazioni. Lei invece sta dicendo vuole andare un po' oltre, ma come si fa a garantire questa apertura, questa trasparenza anche nella gestione degli spazi? Ci riuscirete? Intanto facendo sapere chi gestisce, perché è un meccanismo no, fondamentale. Secondo, nel momento in cui si introduce una rotazione effettiva, coloro che sono più abituati a fare le cose, non sempre sono amici degli amici, spesso sono anche associazioni che hanno merito, effettiva capacità e merito. No, non abbiamo però dubbi sono, di no, questo. Non sono sempre gli stessi necessariamente, nel senso certo. Che quando comincia a rotare votano. Poi il sospetto, legittimo a volte, non legittimo altre, che le attività vengano svolte non solo da parte di alcuni, anche derivato dal fatto che in realtà il numero di attività che vengono fatte in questo modo, cioè il rapporto tra comune e associazioni è piccolo. In più, in questo caso noi non stiamo dando denaro a nessuno, noi stiamo dando la possibilità di svolgere un'attività certo. A proprio carico. Seguiremo questa vostra iniziativa naturalmente come altre tra un po' di mesi quando magari uscirà questo bando spazi per i giovani di Roma. No. Grazie Assessore, dobbiamo chiudere, siamo veramente in chiusura. Abbiamo però forse 30 secondi per sentire almeno un ascoltatore che può tentare di vincere il personaggio della settimana di oggi. Simone da Milano. Buongiorno. Avevo pensato alla nazionale di rugby. Perché ieri, battendo il Sudafrica, ha interrotto una striscia di 12 sconfitte consecutive. Certissimamente, un bellissimo risultato per il rugby italiano. Ma non era il personaggio che avevamo scelto, però siamo contenti di aver dato questa notizia. Grazie di aver chiamato. Grazie, Simone. E capita oggi che non assegniamo i biglietti. Non assegniamo il premio. Perché non avete indovinato. Oggi pomeriggio andiamo alla mostra, te ed io. Siamo stati troppo cattivi con gli indizi, forse. Dobbiamo chiudere. Un ringraziamento, come sempre, ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli. Oggi in regia, Carmelo Larucci. Noi ci sentiamo sabato prossimo, ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, e salutiamo anche chi ci ascolta in podcast.